Radio 24 Reportage. Ma Melody, il calcio oltre il pallone, di Dario Ricci. Cantano e ballano i ragazzi di Ma Melody prima di cominciare a giocare a calcio. Qui, in una delle township più antiche del Sudafrica, a 20 km di Pretoria, il soccer è di casa. La squadra locale, i Ma Melody Sundowns, è tra le più popolari del paese. Ma soprattutto il pallone rotola continuamente, passando di piede in piede tra strade polverose e campi di terra battuta. Perché qui il calcio è linguaggio comune, occasione di incontro. Dei gol fatti o subiti nessuno tiene il conto. L'importante è giocare. John Perlman è un signore sulla cinquantina, minuto, stretto nella sua giacca di pelle in un freddo pomeriggio dell'inverno sudafricano. È lui il creatore di Dreamfields, progetto che dal 2007 vuole garantire ai giovani sudafricani delle township tutto il necessario per giocare a calcio, fino al campo di gioco da sogno, attrezzato e in erba. Dreamfields was created in 2007. Dal 2007 abbiamo garantito maglie, pantaloncini, calzini, scarpini a più di 1400 giovani in tutto il paese e creato molti tornei. Il campo, quello è l'ultimo obiettivo. Quando i ragazzi dimostrano di aver raggiunto un buon livello di gioco e soprattutto di sapersi gestire nell'organizzazione di squadre e campionato, ecco, allora è il momento giusto per realizzare il campo. Beh, il momento giusto sembra essere arrivato proprio a Ma Melody, grazie anche al supporto dell'ambasciata italiana, della Federcalcio e del Credito Sportivo, che sono intervenuti per ristrutturare un campo da gioco ora a disposizione degli studenti di 8 scuole della zona. Quale modo migliore, allora, per inaugurarlo di un bel torneo di calcio? Elio Menzione, ambasciatore d'Italia in Sudafrica, ci spiega come è stato messo a punto il progetto. È un progetto importante, un progetto che è stato individuato e stato selezionato nel corso di un anno, la Confederations Cup. Da allora è stato individuato appunto Ma Melody, che è una delle township più antiche e più importanti del Sudafrica, per appunto collocare questo progetto, che consiste nella ristrutturazione di questo campo, nella ristrutturazione che permetterà di avvicinare ancora di più i giovani allo sport, e questo è l'obiettivo. L'amore del popolo sudafricano per il calcio, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, è straordinario. Quale ruolo svolge il soccer, il football per unire queste diverse realtà in un paese che ha la sua storia di lacerazioni e divisioni? Sì, il calcio in questo paese è tradizionalmente lo sport dei neri, della maggioranza della popolazione. E anche della componente più svantaggiata della popolazione. Però ecco, nel corso di questi mondiali si vede veramente una grande solidarietà fra tutte le componenti della popolazione sudafricana. Anche la parte bianca, che normalmente segue altri sport, normalmente il rugby, il cricket, veramente unita alla maggioranza in un supporto generale a questa iniziativa, che per il Sudafrica è importantissima, è un esame di maturità per il Sudafrica. No? È un'eredità che sopravviverà all'11 luglio, al fischio finale di questa Coppa del Mondo? Io penso di sì. Fino adesso, devo dire, le autorità che hanno organizzato il Mondiale hanno dato prova di capacità organizzative probabilmente superiori alle aspettative. Io credo che sarà molto importante per l'immagine del Sudafrica e quindi anche per attirare in futuro nuovi investimenti, maggiori investimenti in questo paese. È una questione di credibilità e io spero veramente che il Sudafrica possa approfittarne per dimostrare la propria credibilità. Il supporto dell'Istituto del Credito Sportivo sembra essere il primo passo di una strategia di lungo periodo, sottolinea il presidente Andrea Cardinaletti. Ma sì, noi da un po' di tempo stiamo cercando progetti più che monumenti, l'abbiamo sempre detto, ci interessano tutte le iniziative che possano portare crescita al sistema sportivo, ma ci interessa in particolare capire che cosa si può fare di concreto. Qui l'impegno che ci siamo assunti con questa università è a quello di un accordo triennale che porterà ogni anno a un recupero di circa 400 bambini delle zone qui limitrofe nello sport e nel calcio, quindi ci sembra un modo intelligente di investire nel futuro del paese, diciamo nel futuro in generale. Ecco, possiamo fare delle cifre del vostro impegno concreto? Ma guardi, noi ci siamo resi disponibili a verificare un po' il progetto. Questa operazione è finanziata al 50% da noi e al 50% dalla Federcalcio. Riteniamo che sia, come dicevamo, un grande investimento, perché ci sembra, parliamo di qualche decina di migliaia di euro, non parliamo di cifre importanti, però che in questo paese sono molto importanti, significa, ma ancora di più, ripeto, non è tanto il sostegno finanziario quanto l'idea di partecipare ad un progetto e di seguirlo un po' nel tempo. Ecco. E ora torniamo a bordo campo, dove un grande ex campione del nostro calcio, Demetrio Albertini, ora vicepresidente della Federcalcio, guarda incuriosito le prodezze dei giovani talenti di Mamelodi. No, sono dei grandi talenti. Bisogna dargli l'opportunità di esprimersi, no? E quindi siamo qui con grande piacere, vedere la loro felicità, lo sport unisce, quindi lo sappiamo, è una situazione, diciamo un progetto concreto che faccia la federazione per l'Africa. Eh sì, un'iniziativa importante questa di Mamelodi, da questo punto di vista cosa può fare il grande calcio europeo per aiutare lo sviluppo del calcio africano? Sono anni che aspettiamo questa esplosione, i talenti ci sono, i campioni ci sono nei grandi campionati, cosa manca per il salto definitivo? Ma il salto non lo so, normalmente in un grande campione, in un grande evento come quello del mondiale o dell'europeo, la continuità, il poter stare insieme un mese, la concentrazione è quella che magari gli manca ancora alle squadre africane. Per quanto riguarda il calcio europeo, i grandi campioni, è normale che ce ne sono tanti nei nostri campionati, si adoperano tantissimo per i loro amici rimasti in patria, quindi in Africa, e gli stiamo sempre vicini. Questo è quello che fanno i calciatori e le associazioni in Italia. Intanto, insomma, qualche altra bella azione. Non sappiamo come va a finire questa partita, non sappiamo neanche come andrà a finire il mondiale, però ecco, proviamo a immaginare qual è l'eredità di questo evento. Cosa ti aspetti dal 12 luglio per questo paese? Questo paese, spero che possiamo aver contribuito tutti insieme a dargli una spinta per una continuità, perché alla fine le situazioni non può finire il 12 di luglio dopo la finale, ma deve proseguire nel far vivere sia gli stadi ma nel far vivere lo sport. Normalmente dove c'è povertà lo sport insegna, unisce e dà delle opportunità importanti a qualunque persona che può fare sport, e quindi questa è l'eredità che vorremmo lasciare all'Africa. Eredità, futuro, domani, sono le parole ricorrenti in chi prova a immaginare il calcio e il Sudafrica dopo la fine della prima Coppa del Mondo ospitata dall'Africa nella storia. Resteranno i ricordi, le infrastrutture, i dibattiti, chiarisce John Perlman, ma rimarrà soprattutto una lezione da non dimenticare. The big thing for me is, can we, because after a big event everybody goes, phew, thank goodness it's finished. Ogni volta che un grande evento finisce, chi lo ha ospitato tira un sospiro di sollievo, ci dice John. Ma quello che dobbiamo imparare da Sudafrica 2010 è di essere grandi anche nelle piccole cose. Abbiamo ospitato un mondiale, siamo stati capaci di farlo. Quando metteremo la stessa cura e la stessa attenzione, lo stesso amore in ogni piccola cosa di ogni nostro giorno, potremo dire di aver vinto allora anche noi la nostra Coppa del Mondo. Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe, Zumba pepe,